Partiamo da un dato che di fatto per l'ennesima volta Salvini non rispetta le normali regole istituzionali, perché di fatto scavalca il Consiglio dei Ministri emanando un'ennesima direttiva, e questa direttiva consente ai prefetti di fatto di commissariare i sindaci, e questa direttiva è profondamente in contrasto con norme costituzionali. Penso ad esempio all'articolo 13 sulla libertà personale, o l'articolo 16 sulla libertà di circolazione, o l'articolo 24 sul diritto di difesa. Ecco, a fronte di queste norme, che purtroppo dobbiamo dire sono un'amplificazione di quelle che sono state di fatto messe in campo precedentemente con la legge Minniti-Orlando, in cui di fatto in nome del decoro veniva istituito il Daspo urbano, ecco, in nome del decoro oggi possiamo dire che ci troviamo di fronte proprio alla disumana pulizia etnica e ormai a una dichiarata guerra contro i poveri, che sono state portate avanti in questi anni da ordinanze di sindaci bipartisan di mezza Italia, e poi di fatto diventate leggi, prima con la Minniti Orlando e poi con la Salvini. Chiaramente questo ulteriore provvedimento del ministro Salvini serve ulteriormente per soffiare fuoco sulla guerra tra poveri, per spianare ulteriormente la strada ad abusi in divisa, che di fatto identificano i nuovi nemici pubblici, i poveri, i marginali, tutti coloro che di fatto vivono una situazione di difficoltà all'interno dei territori, delle città. Serve per gettare benzina sul fuoco di una campagna elettorale ormai perpetua. E quindi di fatto ormai possiamo dire che in questo paese si è determinato che la povertà è diventata una colpa, un fatto estetico disdicevole, che per legge oggi offende la vista e non dà più nessun senso proprio di giustizia sociale. Ecco, la giustizia sociale di fatto viene calpestata, e ci troviamo di fronte a quello che possiamo chiamare di fatto un diritto penale del nemico, in cui no, delle persone non si colpiscono in base a un ipotetico reato, ma si colpiscono in base alla propria appartenenza sociale. Quindi se sei povero, io ti colpisco, ti rinchiudo dentro un qualcosa che di fatto ti espello dal centro della città, ti espello dalla vita sociale civile. Un altro elemento che secondo me va sottolineato, il fatto è che ormai si è costituzionalizzato le zone rosse. Le zone rosse, nate nelle tragiche giornate di Genova del 2001, poi sperimentate dentro i territori nella Valsusa nell'arco di questi anni, oggi diventano le zone rosse nelle città per espellere i soggetti sociali più marginali. Tu hai fatto bene a ricordare che in realtà questo tipo di provvedimenti purtroppo è trasversale. Lo scatto ulteriore che fa Salvini è quello di minare anche un equilibrio costituzionale, appunto, tra i poteri dello Stato, e desautorare, certo, i sindaci. Sì, sì, ma è questo il fatto. Questo ulteriore provvedimento, insomma, che non è un decreto, perché il decreto deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi Salvini esautera pure il ruolo del Consiglio dei Ministri, fa una direttiva a sé che scavalca totalmente il Consiglio dei Ministri, dà poteri ai prefetti e quindi commissaria di fatto il ruolo dei sindaci nella gestione del territorio. Quindi ci troviamo di fronte a una fase autoritaria in questo paese. Ecco, quello che poteva essere chiamato neautoritarismo qualche anno fa, oggi ci troviamo in un nuovo passaggio di fase, ci troviamo proprio in una fase autoritaria in cui di fatto i prefetti tornano ad essere i podestà.